senso di questa iniziativa appare abbastanza evidente. Il tema rapporto fra informazione giudiziaria e processo penale è quanto mai di attualità. È un rapporto che noi abbiamo definito, noi avvocati, abbastanza complicato, perché insomma la stampa o la rappresentazione mediatica che si fa del processo penale non sempre, riteniamo noi ovviamente, segue dei canoni ermeneutici corretti. Evitando di voler fare il processo a nessuno, ma ritenendo che il confronto nella sede appropriata, sia di una tavola rotonda, sia quello corretto, abbiamo chiamato tutte le parti in causa: il procuratore della Repubblica, il presidente dei GIP del Tribunale di Bologna, due giornalisti di cronaca giudiziaria e due avvocati penalisti che si confronteranno, nel rispetto delle reciproche posizioni, su questo tema. Tengo a precisare che non sarà un convegno, ma una vera e propria tavola rotonda, modello question time. Ci saranno 24 ragazzi della scuola di master di giornalismo che porranno delle domande o agli avvocati o ai magistrati o alla procura o ai due colleghi dei giornalisti. Il confronto e il dialogo è quello che forse può farci migliorare tutto, insomma. Lei già diceva, insomma, dei problemi che avete ravvisato, e spesso è, come dire, anche complicato trovare il confine e l'equilibrio tra il diritto di cronaca e quello che invece sfocia nel processo mediatico, nella spettacolarizzazione, che poi ha anche può avere, diciamo, conseguenze, ad esempio, o sulle vittime o su, come dire, le parti accusate, magari appunto sugli già imputati. Messe sì, esatto, sugli imputati. Quali sono le conseguenze più critiche, più gravi che un mancato equilibrio può provocare? Il problema fondamentale sono i tempi. Una persona accusata di un reato non è, fino alla definizione del processo penale, colpevole. L'equilibrio fra una stampa che noi avvocati vogliamo forte e indipendente, perché serve a tutti, serve innanzitutto alla democrazia, deve essere una stampa corretta. Non a caso, proprio durante questa tavola rotonda, all'inizio di questa tavola rotonda, ci sarà la presentazione anche in anteprima nazionale di un libro dal titolo evocativo Giornalisti o Giudici. Allora, se ognuno di noi fa correttamente il proprio mestiere e indichiamo ai cittadini che le persone accusate sono solo un'ipotesi di lavoro, altrimenti creiamo dei mostri con dei danni sulle vite delle persone che saranno giudicate innocenti o colpevoli, danni irreparabili, perché a volte si rischia anche di essere assolti. L'incontro è aperto alla cittadinanza? Assolutamente sì, lo abbiamo fatto in un luogo, la sala della traslazione in piazza San Domenico, non strettamente deputata agli incontri tecnici, ma proprio perché volevamo allargarci ad un pubblico un po' più vasto, anche perché insomma le posizioni degli addetti ai lavori sono abbastanza chiare. Vogliamo che questo incontro sia partecipato per tutte le persone che, facendo altro nella vita, possono avere magari qualche maggiore strumento per leggere un giornale o vedere una trasmissione televisiva sulla cronaca giudiziaria, di cui spesso e volentieri non hanno gli strumenti. È l'obiettivo finale: fornire ai non addetti ai lavori qualche strumento in più per distinguere fasi processuali, ipotesi di lavoro. Una persona indagata o che riceve un avviso di garanzia non è necessariamente colpevole, lo sarà alla fine, o anche una persona arrestata non necessariamente poi sarà colpevole. Allora, se distinguiamo un po' di fasi e mettiamo qualche puntino sulle i, insomma, forse facciamo un lavoro utile.